America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Chicago, Mario Platero. Tenuto conto del tragico evento di Brindisi e del terremoto in Emilia Romagna, ho deciso di partecipare a Chicago alla fase iniziale del vertice NATO e stasera rientro a Roma, quindi sarò a Roma domani. Il presidente Mario Monti, mentre ieri ci ha annunciato il suo rientro anticipato, è partito ieri notte per l'Italia. Il presidente, devo dire, è apparso molto preoccupato ed è comprensibile, perché un doppio colpo come quello che abbiamo visto in questi giorni nel corso di due vertici importanti, cioè prima l'attentato a Brindisi e poi il terremoto in Emilia, sono due eventi che chiaramente lasciano il segno. Il presidente è stato molto impegnato al telefono, da quel che ho saputo, per cercare di coordinare, di capire, di aiutare nell'organizzazione delle operazioni. Però, detto questo, i vertici, soprattutto vertici importanti come questi, devono andare avanti. It has been a great pleasure to host the leaders of some of the world's largest economies here at Camp David. I think the surroundings gave us an opportunity to hold some intimate discussions and make some genuine progress. Barack Obama, che alla fine del primo vertice, alla fine del vertice del G8 che si è chiuso sabato a Camp David, annuncia e condivide l'idea che l'euro deve restare un punto di riferimento centrale, che la Grecia deve restare nell'euro, che si debbono fare degli sforzi a livello europeo per poter pensare alla crescita. Ho con me i microfoni di America 24 per discutere di questi vertici Franco Venturini, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Franco. Buongiorno. Cominciamo dal versante economico. Dietro le quinte ho percepito fra i policy maker un po' di paura. L'hai sentita anche tu questa paura per quello che sta capitando, che potrebbe capitare? La paura c'è sicuramente e può giocare naturalmente in due direzioni. Se la paura diventa panico, allora crolla tutto. Ci può essere anche una paura costruttiva, che in questo momento è rappresentata dalla Grecia. È importante quel riconoscimento delle situazioni macroeconomiche diverse. Questo significa per alcuni una maggiore flessibilità, e questo è importante anche per l'Italia. E per altri, e qui credo che parliamo della Germania, una sorta di dovere di concedere qualcosa visto che si sta meglio. E la Merkel ha anche detto al termine del G8: guardate che tra me e Hollande non c'è nessun contrasto. Le concessioni ci saranno sul lato della crescita, ma non credo che ci saranno ammorbidimenti sul lato del rigore, anche perché se la Merkel facesse questo potrebbe essere sicura di perdere le prossime elezioni. Ecco, hai parlato di Hollande. Hollande è stato un po' il protagonista di questi 3-4 giorni americani. Qui a Chicago, in questo vertice NATO, ha detto che la Francia si ritirerà entro il 2012 dal punto di vista militare. Certo, da un contentino agli americani, lascerà alcune truppe per l'addestramento e parteciperà allo sviluppo economico. È sufficiente? Cosa significa questo per la NATO? Per la NATO, a Chicago si è detto che non è un grande problema, ma in realtà lo è, perché Hollande ha subito definito non negoziabile la sua decisione di ritirare le truppe combattenti. È importante questa definizione. Per quanto riguarda la logistica, lui si darà più tempo, perché da qui alla fine del 2012 a ritirare la logistica, i mezzi militari, non si ha il tempo di farlo. L'interrogativo che si pone è che se quando tu ti lasci alle spalle la logistica, ci vuole una protezione militare della logistica. Ora, se lui ritira le truppe combattenti, dovrebbero essere le truppe afghane a garantire la sicurezza della logistica francese, e questo sarà un problema per la promessa di Hollande. E per la NATO si pone un altro problema, perché la regione di Capisa, che è quella affidata, che è stata affidata fino adesso ai francesi, è una regione turbolenta che non è detto affatto che le truppe afghane siano in grado di tenere sotto controllo. Ecco Franco, fra poche ore si chiuderà questo vertice NATO, ci sarà una dichiarazione, una conferenza stampa del presidente Obama. Uno dei temi forti è lo scudo missilistico. Sappiamo che Obama, a microfoni aperti, aveva rassicurato Medvedev, però sappiamo anche che, insomma, c'è molta preoccupazione per quello che invece potrebbe succedere se per caso dovesse vincere Mitt Romney. Secondo te Obama potrà farcela o la battaglia è dura con Mitt Romney? Ma intanto io sono abbastanza sorpreso che Obama e Romney siano testa a testa nei sondaggi. Ne ho visto uno in questi giorni, uno dei tanti che dava addirittura Romney in leggero vantaggio. Sono sorpreso perché mi sembra che Obama dovrebbe essere più avanti, dovrebbe essere più forte. Dunque, indubbiamente per lui è preoccupante che a questo punto della campagna siano già alla pari. Per cui non so, non personalmente spero che Obama ce la faccia, ma ho molti più dubbi di quelli che avevo prima. Per quanto riguarda invece lo scudo e il rapporto con la Russia, certamente sia Obama che credo anche Putin hanno interesse e intenzione di riprendere a trattare, se Obama sarà rieletto, dopo le elezioni presidenziali americane. Bisogna però considerare che i russi e non soltanto Putin sono fortemente contrari all'attuale impostazione dello scudo antibalistico americano e poi accettato anche dagli europei, diventato una iniziativa della NATO. Sono fortemente contrari perché vi vedono una modifica degli equilibri nucleari sia in Europa sia nel rapporto tra Russia e Stati Uniti. Dunque, se si dovrà trovare un compromesso, lo si dovrà trovare con delle concessioni a Mosca sul coinvolgimento di Mosca nell'intero sistema, cosa che fino adesso gli americani non sono stati molto favorevoli a fare, se non a parole o con provvedimenti marginali. Se non si troverà questo compromesso, credo che ci sia una rotta di collisione tra gli Stati Uniti e la Russia sul tema dello scudo, chiunque sia il presidente degli Stati Uniti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, lo storico rock club CBGB, fondato a New York nel 73 e chiuso ufficialmente nel 2006, riapre perché alcuni investitori hanno deciso di dare nuova vita a questo locale. Ci sono passati poi anche i Talking Heads, Blondie, i Ramones, e dunque rievocando il CBGB dei Talking Heads, Psycho Killer. Run, run, run, run. Da Chicago è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.